te vull equivocar. Ciò che hai d'anticipo, ciò che hai per perdere. La mia chitarra non suonava più per me, per te, per noi. Fiumi scorri, abbondi, appari limpida, sei la mia sete, rimani sete, rifletti ogni attimo di un rosso porpora che invade il tempo e poi mi avvolge e strangola. Non allenta mai. Sei come un miele amaro, mollami e non tornare indietro, seguimi. Perché non allenta mai.